Una buonasera, 451 frammenti sonori e altri suoni uniti per serata dedicata, a livello sicuramente meteorologico ci siamo, a quell'universo cold minimal synthwave. Jerry ci raggiungerà tra poco. Abbiamo un ospite d'eccezione, anche se poi di fatto è diventato un po' caro alla famiglia sia di 451 che di altri suoni di Jerry, ovvero DJ Tetro. Ciao. Buonasera a tutti, ciao. Come va? Ma tutto bene, dai, siamo qui per preparare una roba. Quando si tratta di musica, quando si tratta di musica siamo sempre pronti. Si sta sempre bene. Cold Wave, quindi minimal synth wave, per insomma, come dire, usare un termine che da qualche anno è diventato trendy, visto anche nuove formazioni, nuove etichette che si stanno affacciando e che riprendono quel suono synth pop, wave elettronico. All'epoca come si definiva Tetro? Poi? Ma era considerata new wave alla fine. Era una distinzione molto, molto labile, era più elettronica ed era la versione più elettronica della new wave. Era quella, insomma. Nessuno faceva distinzioni così raffinate. Sono state le compilation del dopo che hanno fatto. Infatti, da 3-4 anni che sono scoppiate, poi prima con il recupero della wave storica e poi insomma sempre e poi con le robe più oscure che erano quelle che poi all'epoca circolavano in maniera meno diffusa, perché magari gruppi che non ebbero un solo singolo magari, oppure poi scomparsi, oppure cose che sono uscite in numero ridicolo di copie proprio perché non avevano nessun tipo di addirittura seguito. Questa sera mi metterà anche qualcosa riversato dai tape, sì, no? Dalle cassette, no? Anche quello gruppi soprattutto della parte nord europea, perché la scena fu molto franco-belga. Sì, qualcosa francese. In parte krauta. Sì, vabbè, quello sicuramente. Per conseguenze di altra razza che abbiamo già trattato. Esatto, è uno specialone in due puntate. Due puntate con Gino dal Soler. Infatti, Jerry d'Eliseo. E questa sera appunto ripercorrendo quella che fu una musica fondamentalmente nata alla fine degli anni 70, primi anni 80, poi ripresa insomma 30 anni dopo, anche sì, di più di 30 anni. Beh, sì, le prime etichette ricominciano a pubblicare a cavallo del 2000-2001. Con sì, il primo Electro Clash, dici, sì, quindi cominciano a recuperare quelle sonorità. Sì, sì, sì. E parliamo sempre di un'area ben precisa in Europa e una scena molto forte negli Stati Uniti. Adesso infatti suonano molto a Brooklyn, no? Molto a Brooklyn, Williamsburg, la scena di Weird Records, Marcel Cantarell, che fra l'altro è appena passato a Bologna il 5 di... Tu l'hai visto? Il 5 di no, ero a mettere i dischi al covo dopo la Gang of Four. Anche lì storica formazione. Sempre nella storia. Tra l'altro, vabbè, poi non minimal synth, però no, insomma anche loro sono andati all'elettronica poi, no? In un certo periodo. Sì, hanno avuto il terzo disco, hanno cominciato a usare un pochino più... Però insomma le robe storiche erano più veramente più valide, infatti punk funk storico. Prima parte quindi di 451 e altri suoni, con i papà che adesso sentiremo, addirittura forse i nonni di questo suono, anzi no, i papà, perché i nonni li abbiamo trattati con appunto il kraut, sì. E poi un set appunto di DJ Tetro. Torneremo poi in diretta, probabilmente sarà arrivato anche Jerry. Salutiamo Eliseo che non è qua, ma volendo per molti versi lo è, e appunto iniziando e quindi trovando i papà. Tra i papà prendiamo un gruppo che è stato molto caro a Radio Città del Capo, che sono i Grauzone. In particolare Stefan Eicher fu una persona che con Radio Città del Capo organizzò e fece un concerto per un capodanno dentro al Teatro Tenda, quindi anno? Mamma mia, 82 credo, siamo giù per quelle valli lì, non me lo ricordo più. Quindi diciamo che era anche, cioè era nel pieno, però diciamo nell'apice, sì. Poi ci sarebbe stato nell'83 la discesa, no? Sì, poi dall'83 finisce la new wave proprio, se vogliamo, cioè, entriamo in un vuoto strano, si torna forse verso un rock più tradizionale da una parte. Sì. E il synth pop veramente becero dall'altra, che prende il sopravvento, che è iniziato invece in questa maniera, come lo metteremo stasera, in maniera stupenda, avanguardistica, avventurosa. Sì, gruppi che hanno fatto evoluzioni assolutamente clamorose. In Germania invece che succedeva? In Germania fine anni 70 reggevano ancora i Kraftwerk alla grande. I Kraftwerk forse diventano famosi in quel periodo lì, perché poi l'apice Man Machine e Compagnia Bella, arriviamo a cavallo di quegli anni, e lì nascono tutti dei derivati strani che sono Der Plan, Pyrolator e gruppi stralunati, oppure più body music come i Duff. Com'è che succede la faccenda quindi Bologna Berlino Grauzone di Berlino no Grauzone era svizzeri a Svizzera addirittura un ibrido assoluto quindi a metà strada vengono a Bologna perché erano più vicini quindi viene a trasmettere Radio Città del Capo sì, Radio Città no, all'epoca soprattutto Minnella sponsorizzò il loro unico disco bellissimo fra l'altro i loro singoli e diventarono un po' essendo comunque una radio che aveva già promosso il kraut in maniera importante, forse l'unica radio che trasmetteva quel genere Tomasetta, di musica, Tomasetta, sì. Danilo e Compagnia Bella, automaticamente con la scena bolognese dei Central Unit, quindi legati anche a Taxi Do Moon, comunque all'art rock, i Grauzone orbitavano in quell'area di suono che poteva avere un riferimento preciso di quel periodo per Bologna, in particolare per Radio Città, allora, non ancora Radio Città del Capo. Un'altra faccenda, ma poi insomma per tanti versi anche continuate, insomma per tanti versi lo stiamo anche continuando questa sera. Esatto, c'è un continuum. Allora ce ne andiamo a ascoltare, che pezzo andiamo a sentire? Ice Beer, che è un pezzo ritmico con delle sonorità molto molto particolari, veramente cold, e quindi Ice Beer, Grauzone dal 1981. Adesso faremo ricerche, via, così vedremo se ci ho preso. Rammentiamo anch'io, ogni tanto dei vuoti temporali. Grauzone. Bene, tornati in diretta, Crowdzone, proprio una scena decisamente viva, poi con quella sonorità insomma tedesca che si sentiva anche seppur, come dicevi appunto tu Tetro, non in diretta, che alleggeriva un po' quel suono teutonico. Sì, insomma, c'era quella componente wave che lo rendeva tra virgolette più pop. Loro è stato un gruppo non particolarmente esasperato, con molta melodia anche, perché sentiremo anche cose abbastanza esasperate sicuramente anche andremo anche verso suoni che sono molto meno fruibili tra virgolette, nel senso sempre molto schematici, sempre molto regolari, però sicuramente meno commerciali, se possiamo definire commerciali questo pezzo. Sì, sì, tra l'altro qualcuno di questi qua è riuscito anche a vendere all'epoca. Sì. Quella è la cosa. Furono gruppi che ebbero comunque un minimo riscontro, poi ci sono stati quelli che hanno oggettivamente fatto numeri importanti anche con cose non particolarmente commerciali. Gary Numan per esempio, sì, comunque per quanto sia non è così riascoltato oggi, non aveva tutta quest'aria così commerciale. Ah no, beh, soprattutto a rivedere i video che si trovano tranquillamente sulla rete, beh, il personaggio è abbastanza inquietante. Che continua a operare in maniera inquietante, perché è ancora lì che vaga e fa live, sì, da poco tempo. Ha fatto anche l'operazione, no? Sì, ho fatto di tutto. Personaggio, addirittura per un periodo era diventato anche filo tacceriano. Sì, sì, no. Si diceva questa cosa. Ma quelle poi vanno sempre verificate. Le voci, sì, bisogna prenderle col dovuto. Anche col senso trans, insomma. Adesso cosa ascoltiamo? Rimaniamo sul versante tedesco, però andiamo già sulla parte più sperimentale del periodo, ed sono i Pirolator, che era poi legati ai Derplan a doppio filo, perché hanno collaborato tra di loro. Tra l'altro c'è una storia particolarissima, perché tutti partono come cos'è? Come Daff o come Derplan? Poi dopo ci sono... Partono come Derplan, poi Pirolator era praticamente un personaggio che usava questa tuta con scritto Pirolator, usava questo strumento costruito da lui, un synth strano di autoprodotto, che poi fece il progetto per praticamente tra virgolette singolo. Comunque, ma erano gruppi che si intersecavano tra di loro. Jerez, sì, no? Poi quella scena belga, arrivano di Liaison d'Agerez, ma i Duff stessi nascono da questo embrione. Quindi Gabi Del Bagado ha collaborato con i Derplan. Ma è un po' come la scena Kraut, che sì, anche sì, all'epoca sì, tutti si sono hanno collaborato tra di loro, e anche la scena successiva, che era molto simile come atteggiamento, come comunità proprio. Sì. Tutta la noi Deutsche Welle, esatto, gli Zaza e tutti questi gruppi più o meno Malaria, no? Malaria, che erano già del versante più fuori di, quindi versante più vicino ai Grauzone, perché poi c'erano anche lì, dopo poi a posteriori sono state fatte le divisioni. Sì, all'epoca, era una grande zuppa. Una grande onda, no? Era una grande onda, una grandissima onda oggettivamente. Andiamo a ascoltare quindi Pirolator, che anticipa un po' i circuiti attuali, cioè insomma le costruzioni, le autocostruzioni dei synth che si stanno facendo negli ultimi anni, il noise americano, Wolfeyes, no, Prurient. Infatti non è un caso che poi tutte queste persone abbiano preso comunque riferimento da questi tipi di produzione, quindi autogestione quasi. Sì, e poi è un suono analogico brutalizzato, tra l'altro. Molto, no? Brutalizzato. Altro che digitale. Ma anche se uno ascolta la batteria elettronica di Hiroshima Onamura, degli Ultravox, è una batteria analogica, che ha e anche il synth analogico, ha un suono pazzesco proprio perché sì, è analogico. Sì, sì, se sì, fosse digitale oggi forse non direbbe nulla, non avrebbe neanche... Beh, molta minimal, infatti si è anche fermata proprio per questo. Diventa no? totalmente asettica. Non ha quel grado di rumore, di emotività. Esatto, no? Non trasmette, già nel cold, se poi togliamo anche quella parte umana, sì, no, abbiamo finito. Ok, allora Pirolator, quale pezzo? Ah, il titolo non me lo ricorderò mai, perché non so il tedesco, quindi sono Ein Weihnachtsmann kommt in die Disco. Ce l'ha fatta, ok. Non so se sia così. Pirolator. Thank you. Beh, notevolissimo Pirolator, tra l'altro, insomma, si ascoltava qua veramente di tutto, una trasversalità molto molto interessante, anche addirittura una sorta di funk robotico, sì, a un certo punto, tra vocoderismi e insomma stranezze anche così paraetniche. C'era già di tutto, c'era già di tutto, perché poi, ripeto, l'influenza del kraut ce l'avevano e si sentiva, come non sono così lontani, hanno solo modernizzato i suoni, e anche la chitarra funk poi presente anche magari in certe cose dei Can. Qui ritorna in un modo che sembra più moderno, sembra quasi Nile Rodgers passato al vocoder, che molti ascoltavano, mi sa, all'epoca, no? E poi Poi molti ci finiscono con gli Chic, con Nile Rodgers a farsi produrre i dischi. Bowie stesso, il post Berlino, finisce in mano a Nile Rodgers. Non è un caso, no? Ma allora siamo pronti qua per il set, quindi ci lanciamo dentro queste un breve set di una trasversale che va dal vecchio al nuovo, si sentirà un po' di tutto, poi dopo magari. Il set che stai portando anche in giro, sì, vero? Lo sto usando un po' in giro e quindi è una sorta di provetta generale. Anzi, così. Poi magari ci dici anche dove sarai. Dove saremo in futuro. Così insomma ti veniamo anche magari a vedere, appunto. E, sì, quindi lanciamo il set. Partiamo con una cosa. Il primo brano comunque è Snowy Red. Storico. Uno dei dischi più belli forse di synthwave in assoluto del periodo, abbastanza misconosciuto all'epoca, poi rivalutato nel tempo, tanto che oggi hanno ristampato tutti i vinili in un unico cofanetto. E quindi partiamo con Hiroshima, un brano bellissimo, e poi dopo seguiranno altre cose, dopo ne parleremo. Tra l'altro titolo che la dice già lunga su come la vedessero. Era una diagonale anche quella. C'era l'influenza anche del Giappone, che comunque c'era Yellow Magic Orchestra. Sì, diciamo che dovendo anche trovare altri riferimenti in Italia, Moroder per quello che è stata la disco, comunque, che comunque aveva delle componenti di questo genere ben precise. Sì, beh, molto la robotizzazione del ritmo. From Here to Eternity, comunque. Sì, I Feel Love, sono tutti brani che hanno una componente elettronica molto simile alla synthwave, o comunque la synthwave ha preso anche da lì. Sì, quei synth che tremolano, così. Questi echi. E poi Yellow Magic Orchestra. Va bene. E apriamo una sorta di danza mentale, danza meccanica citando qualche dono. Citando così per caso. We'll be right back. Oh! don't have the right to come and go, collect the cash. Workers work, collect the trash. Control clock, the day can start. Control clock, the day is hot. Buy a house, end of the week. Evening TV, that's a peak. Crash, flash, smash, the trash. Shriek, seek, the peak. Workers are majority, here to rule a factory. Imagine masses start to fight, they decide and live their right. Take the chance, turn the table on finance. Pick the bosses, let them dash, and their system goes to crash. Knock, rock, shock, the cock, hack, back, the shack. Hierarchy, a product of humanity, a product of absurdity, a product of no sympathy. Now the masses start to fight, they decide and live the right. Now they turn it upside down, and we'll see who knows it down. Quick, kick, the stick, fight. You're right. there. I rolled the dice, but it took me back another year. I didn't know. I didn't know. I didn't know. I didn't know. I didn't know that the city was a heart attack. I'm at the station, but I'm never gonna find the tracks. I was surprised to see you standing in the cold. A thousand miles just to tell me that I'm getting old. Enough. Like you took on something nice. that's not wrong. It's a leather gown with an M on it. You can dance with me just for a bit. Try it on. It's your size. I'm gonna dance, dance all night. Little red night.